Summertime di Elisabetta Fiorito. Io ho prestato 3 mesi fa 100.000 scudi al Papa. Tutto quello che avevo, Eminenza. Quei soldi che ci avete prestato a strozzi. No. No, Eminenza. Non dite questa brutta parola che mi fa male al cuore. D'altronde, nel Vangelo non c'è. Lasciate perdere il Vangelo. Quello è terreno mio. Comunque, oggi scade il contratto e io sono venuto a ritirare il capitale. Più 3 mesi di interessi che al 18%, e non mi sembra che io meriti questo brutto appellativo, Eminenza. E quello che sentiamo, buon pomeriggio, è una rievocazione dell'avaro, figura storica, uno dei vizi capitali. L'avaro interpretato in questa rappresentazione cinematografica da Alberto Sordi. Ma l'avaro di Molière, invece, debutta questa sera in prima nazionale all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, in provincia di Pisa. E l'avaro, quindi Arpagone, il personaggio poi raffigurato dal grande Molière, è Andrea Buscemi. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a tutti voi. E c'è Eva Robbins nel ruolo di Frosina, la zingara. Eccola qua. Sì. Allora, iniziamo da Arpagone. Arpagone è il classico vecchio taccagno. Lui ha sistemato, vorrebbe sistemare i figli con gente ricca che loro non amano, e lui però per lui sceglierebbe una graziosa ragazza senza dote, no? Questo è tipico di tanti, non soltanto degli avari, è tipico di tanti di tanti uomini anche che hanno a che fare, che sono molto popolari in questo momento in Italia, diremo così. Ma non facciamo nomi, sappiamo a chi ci riferiamo. Sì. Certo. Allora, questo personaggio è una sfida un po' per un attore, no? Anche perché da una parte suscita simpatia, perché è talmente tanto ridicolo da suscitare la simpatia del pubblico. Certo, beh, questo va da sé, è uno dei vizi proverbiali che fanno ridere da sempre, e la sfida, dici bene, la sfida però è attoriale, perché Molière 350 anni fa ha scritto un personaggio che è inarrivabile, che appunto poi, come vedi, hanno attinto a piene mani anche dei divi assoluti come Alberto Sordi per farne rivisitazioni cinematografiche pochissimi anni fa, per cui è ancora attuale, perché è stato scritto in modo perfetto. Direi che la drammaturgia dell'avaro non è così perfetta rispetto appunto a altre cose più felici di Molière, però il personaggio è azzeccatissimo, tant'è vero che è quello che passa per antonomasia come il personaggio più famoso della drammaturgia del francese. Ma alla fine poi Arpagone, che vorrebbe governare a bacchetta i figli, deve prendere atto che saranno i figli a governare lui, e quindi che la nuova generazione lo schiaccerà. Certo, lui subisce naturalmente, subisce, cerca di imporsi, ma è talmente sterile negli affetti, nei sentimenti, che fatalmente soccombe, delega tutto a questa sua voglia di danaro, questa sua voglia di speculare sugli altri, non soltanto appunto sul materiale, ma appunto anche sui sentimenti, che alla fine fatalmente si soccombe. Questo è, insomma, succede così anche nella vita di tutti i giorni nostra, intendo dire, no? E nel ruolo di Frosina abbiamo sentito Eva Robbins, però nel famoso film di Alberto Sordi Frosina veniva fatta addirittura da Laura Antonelli. Sentiamo un brano. Ma insomma, sta moglie, ma la vuoi trovare o no? Sì, sì, ve la trovo. Ma come deve essere sta sposa? Come deve essere? Deve essere degna di portare il mio nome. Ma certo. Possibilmente ricca. Ah. Comunque, giovane, bella, educata, modesta, risparmiatrice, obbediente, simpatica. E nient'altro? Sì, incinta di 2 mesi. Ah, bello scherzo. No, aspetta, che scherzo? La devo trovare subito, immediatamente. Immediatamente. Datemi almeno il tempo di vedere cosa offre la piazza. Vabbè, guarda che offre. Ma solo Eva Robbins, allora Frosina, una donna col cervello oppure una donna molto furba che si barcamena tra le richieste assurde dell'avaro e poi quello che invece desiderano i figli di Arpagone? Beh, sicuramente non troppo furba, anche perché sennò avrebbe intuito che d'Arpagone non ne cava nulla. E poi, va bene, nel film di Tonino Cervi è liberamente tratto, ci sono delle cose che... Certo, testo, abbiamo già detto. Esatto. E, no, è sicuramente una donna passionale. Buscemi l'ha vista come una sorta di zingara, una zingara ruffiana che cerca di combinare incontri, matrimoni, insomma dovrebbe essere la sua specialità, ma ha a che fare appunto con questo scoglio aspro che l'Arpagone, e da cui non ne ricaverà quasi nulla. Ecco, che cosa vuol dire interpretare una zingara per Eva Robbins? E poi soprattutto c'è molta attualità rispetto a questo personaggio. Esistono ancora le mezzane, perché questo è, no? Esistono ancora le mezzane, le ruffiane, quelle che organizzavano i matrimoni, oppure adesso si va su internet, si fanno i matrimoni su Facebook, sì, su Zusk, insomma ci sono altri modi. Ci sono altri mezzi virtuali per combinare. Devo dire che il mio personaggio è veramente molto molto simpatico. Questo che mi ha fatto decidere anche alla prima lettura di esserne conquistata. Le mezzane, oddio, io non ne ho conosciute, però insomma sicuramente sono, intrallazzano ai vertici del potere, ci sarà qualcheduno che combina, no, i giochi, per cui che dire. Senti, ma dalla Locandiera dell'anno scorso che avete fatto insieme a L'Avaro di quest'anno c'è una rivisitazione vostra dei grandi classici, Eva? Sì. Sì, devo dire che il secondo incontro con il classico, grazie ad Andrea Buscemi, e devo dire che alla fine è una scelta abbastanza, come dire, fortunata, perché mi diverto lo stesso anche col classico, forse una forma di trasgressione anche questa. Sicuramente per Eva Robbins. Esatto. Allora, Andrea Buscemi, tu curi anche la regia. Un personaggio come Arpagone, nella sua tircheria, oggi è riconoscibile, oppure oggi si deve parlare di avidità, visto anche gli scandali, ma noi non facciamo nome, eh? L'avidità è forse la cifra essenziale della nostra epoca, no? Tutti siamo un po' avidi, chi più chi meno, chi poi ha più possibilità di mettere in concreto la propria indole, e è un'epoca molto contrassegnata la nostra dal danaro, per cui cerchiamo tutti quanti di farne il più possibile, e probabilmente ci sono anche tanti avari, comunque sia tanta gente che sta attenta ad accumulare. Questo è Arpagone. L'altro vizio però leggendario di Arpagone è anche l'usura. Lui presta soldi a strozzo, come ha fatto magistralmente sentire Alberto Sordi in apertura intervista, ed è un'altra cosa della quale dover parlare purtroppo in quest'epoca. Ricordiamo allora L'Avaro di Andrea Buscemi con Eva Robbins questa sera all'Anfiteatro Forte Mazzola di Peccioli, in provincia di Pisa, ma poi sarete in giro il 10 agosto al Festival Orizzonti di Chiusi, il 22 agosto alla Versiliana e poi da novembre al Teatro Goldoni di Livorno e tournée. Grazie ad Andrea, grazie ad Eva, appuntamento ore 21:30, grazie. A dirsi ma non a farsi, quando si ama qualcuno lasciatelo libero. Allora, Sting sarà il protagonista, uno dei protagonisti del Tuscan Sun Festival, giunto alla sua 8ª edizione, che apre stasera a Cortona in provincia di Arezzo e finirà il 6 agosto. Buon pomeriggio a Barrett Wiseman, che è l'organizzatore del festival. Tantissime novità abbiamo sentito, addirittura Sting, che ama la Toscana, che oramai è mezzo toscano, ma insomma portarla a questo festival è stato un successo. Sì, sarà Sting, ma allo stesso tempo avremo un programma molto diverso, molto differente. Sting farà le lettere d'amore di Robert D. Schumann con Clara Wieck, la moglie di Schumann, con Trudy Styler, sua moglie. E sarà molto molto interessante. È un festival che mischia arti visive, arti figurative, teatro, musica, tutto. Questo è il punto del festival. Abbiamo Joshua Bell, Renee Fleming, Lavia, sì, Gabriele Lavia fa un programma con Cecilia Chailly, l'artista. Avremo le stelle del Bolshoi, del Kirov, da Russia. C'è molto molto da vedere e da sentire quest'anno. Anche abbiamo l'artista Days, Lui era il fondatore del movimento graffiti a New York negli anni 70-80. Lui verrà a Cortona anche per fare una mostra. Cioè si inizia l'orario? Si inizia il 31 con Marcello Giordani e Shevchenko, cantante russa. Lei ha vinto il Singer of the World Competition l'anno scorso, è il concorso più importante per il teatro lirico. E l'appuntamento con René Fleming è il 3 agosto. Con Sting il 5 agosto. Comunque il 30 luglio invece c'è una piccola apertura, no? Con degli appuntamenti durante il corso della giornata e poi il 31 c'è l'opera gala domani, giusto Barrett? Sì. Cosa spinge un americano ad amare così la Toscana tanto da organizzare un festival a Cortona come te, Barrett? Io stavo studiando all'Accademia Chigiana come pianista molti anni fa. Ho trovato una casa a Cortona e l'ho comperato. Mia moglie ed io siamo entrati in teatro 15 anni fa e abbiamo visto un teatro molto molto bello, non usato per concerti, e abbiamo deciso di invitare amici per fare un piccolo festival. È diventato una cosa molto più grande e il punto di questo festival è per gli artisti, loro possono fare cose vogliono. Quindi insomma il Tuscan Sound Festival, abbiamo sentito un americano in Toscana, potremmo dire così, e che oramai è toscano e che ha organizzato un festival internazionale, mi sembra giusto, ma soprattutto un modo per gli artisti di fare anche delle cose che generalmente invece non fanno nella loro carriera. E ospiti d'eccezione saranno appunto Sting e Trudy Styler, ma tante tantissime performance alle 21 a Cortona in provincia di Arezzo fino al 6 agosto. Grazie Barrett, soprattutto non lasciare l'Italia, noi ti vogliamo tenere qui. Ciao! Grazie a voi, ciao. Summertime. Essere o non essere, questo è il quesito. Se sia più nobile nell'animo sopportare i sassi e le frecce di un destino atroce, o prendere le armi contro un oceano di guai e combattendo, annientarli, morire, dormire, nient'altro. E con quel sonno dire no ai dolori del cuore e agli infiniti colpi naturali che la carne ha ereditato. Le pene che il monologo del terzo atto dell'Amleto, da qui cambiò tutto, cambiò anche la visione del mondo, da qui si abbandonò una visione di Dio, ma si andò verso quello che viene ritenuto l'uomo nuovo. Amo la mole, all'interno della mole vanvitelliana di Ancona, Amleto in prima nazionale da oggi fino al 4 agosto con una regista giovanissima che ha l'età che dovrebbe avere Ofelia. Buon pomeriggio Valentina Rosati. Buon pomeriggio a voi. Allora, 25 anni, ma generalmente si recita la parte di Ofelia, no? Invece ci si mette a fare la regia di Amleto, insomma, un po' impegnativo. E invece ci si mette a fare la regia, sì, io sono fortunata, ho una compagnia d'attori bravissimi, siamo insomma aiutati dal Teatro Stabile delle Marche e abbiamo un grande maestro che ci segue che è Carlo Cecchi, e quindi diciamo gli elementi fondamentali per poter affrontare un lavoro come questo ce l'abbiamo tutti, e adesso osiamo e affrontiamo il pubblico, questa è poi la vera prova. Quello che volevo chiederti Valentina, questo Amleto però è un pochino diverso da quello che abbiamo sentito nella versione tradotta poi di Kenneth Branagh, no? Cioè è un Amleto un po' svogliato, è vero che Amleto è sempre stato un po' titubante, questo era il suo problema in tutte e quattro le ore della tragedia, però com'è questo giovane principe di Danimarca? Questo giovane principe di Danimarca intanto è un appassionato di teatro, e questa è una cosa fondamentale perché è con il teatro appunto che catturerà l'anima del re. È un attore, come prima cosa, un attore comico destinato però al tragico. Quindi la sua svogliatezza, la sua incapacità di agire, l'affronta col processo proprio prettamente teatrale e con la rappresentazione. Quindi un po' esageri quello che c'era già all'interno dell'Amleto, che è quella parte di teatro nel teatro, no? Quando Amleto fa una sorta di regia per il re, per lo zio Claudio, e per fargli capire che lui sa qual è la verità sulla morte del padre. Esatto, è una cosa piuttosto strana, invece insomma di andarlo ad ammazzare immediatamente dopo che lo spettro appunto gli dice guarda che sono stato ammazzato da mio fratello, e invece Amleto no, non va ad ammazzarlo, cioè questa è una cosa piuttosto strana, come invece farebbe un eroe, magari un eroe greco. Lui si mette a fare teatro e questa è la cosa che ci ha sconvolto a tutti quanti, cioè il percorso è così, finge di essere pazzo, interpreta ruoli su ruoli prima di arrivare poi ad adempiere al suo ruolo principale, che è quello appunto del vendicatore, della vendetta. E questo è Shakespeare, ma è anche la regia di Valentina Rosati, ricordiamo, 25 anni, complimenti. Amo la Mole, all'interno della Mole Vanvitelliana di Ancona, Amleto in Prima Nazionale da stasera fino al 4 agosto alle 19, perché quante ore dura questa tua trasposizione del dramma shakespeariano? Beh, compresa la pausa sfioriamo le 3 ore e lo facciamo tutto in versione integrale. Noi affrontiamo questo testo con la traduzione di Cesare Garboli, che è in endecasillabi. L'endecasillabo dà un ritmo alla poesia, alla recitazione molto più rapido, e credo che sia quello giusto, se mi posso permettere. Allora, è molto veloce. Beh, sappiamo che poi in Amleto i colpi di scena non mancano. Valentina Rosati, grazie, regista di Amleto Prima Nazionale, Mole Vanvitelliana di Ancona, ore 19. Grazie a voi. È una, è due, è una, è due, è tre, è quattro, è una, è due, ma come amara sta qua sante. Una, è due, sta bottigliere su che frutta schiatta sotto, ma sta creatura l'era tu ci fratte. Una, è due. E questa è la voce di Rais degli Alma Megretta, che fa una speciale canzone, anzi non lo so come si direbbe, forse un morphing sentimentale, però ora ci capiamo un attimo di più, perché morphing sentimentale con discesa a mare, perché Canio Lo Guercio, nostro amico oramai, buon pomeriggio Tanio, buon pomeriggio Canio, domani 31 luglio a Nettuno fa delle suppliche d'amore. Insomma, che cosa fate? Questo morphing, ci vuoi spiegare che cosa vuol dire morphing? Sì, adesso te lo spiego, ma insomma sembra una cosa complicatissima, in realtà si sarà una performance, uno spettacolo un po' diverso dagli altri, perché questo spettacolo, che dura insomma un'ora e mezza, 2 ore, quindi insomma una durata assolutamente accettabile, succederà un po' di tutto e ci saranno sovrapposizioni di voci, di suoni, di canti, di balli, e così che nel tentativo di far come dire, inserire i vari linguaggi, che i linguaggi si inseriscano gli uni negli altri, come avviene per il morphing. Il morphing appunto è questa pratica che viene utilizzata da quelli che fanno video, ecco, una pratica grafica, è quella che trasforma i volti. Noi proveremo a integrare e a sovrapporre i vari sentimenti che verranno fuori in questa serata. In realtà sono sentimenti che già sono emersi nel corso della raccolta di tante suppliche d'amore che io ho fatto, sia attraverso la rete che attraverso alcune postazioni. Ecco, tu parli proprio il primo raduno poetico con oggetto le suppliche d'amore. Ma che cos'è una supplica d'amore? Io spero che sia magari una sorta di serenata, no? La supplica d'amore è l'insieme di due termini che appartengono, diciamo, forse a due ambiti diversi. La supplica è un termine assolutamente religioso, è una preghiera, quindi il supplicante spesso si rivolge a Dio, insomma si rivolge ai santi per chiedere qualche grazia, oppure qualcosa che insomma al 99% credo insomma sia con esito negativo, perché insomma la supplica credo che sia l'ultima spiaggia. E la supplica d'amore è una cosa simile, considerato che io canto per lo più canzoni d'amore in napoletano, e la tradizione napoletana è fatta di canzoni quasi sempre sofferte e quasi sempre, diciamo, come dire, con un esito negativo. Amaro amore, Canio Loguercio, oramai un amico di Summertime, con Le suppliche d'amore, un morphing sentimentale con discesa a mare, appuntamento a Nettuno al cortile interno dell'ex Divina Provvidenza, domani 31 luglio alle 21:30. Grazie Canio. Grazie a voi. Io ringrazio Alessandro Chiapini in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e così vedere quali sono gli appuntamenti della serata. Per quanto mi riguarda, una buona serata a tutti.